Accanto a parlare d'altro, parliamo tanto mentre mi sdraio sull'asfalto e penso che dal mio point of view il tuo parere non mi serve più. Vivo ogni mio viaggio come fosse l'ultimo, trovo sempre un modo per renderlo unico. Scatto polaroid che non possono spedire, poi dice che mi dice divento ciò che sei. Le vite divise non so più chi sei. Strade mi parlano di come potrebbe andare, nel bene o nel male cerco di sorridere. Ma come faccio? Una mano cerca il cielo, ma tocca la verità. Tu chiamami e raccontami qual è la tua realtà. Ma come faccio?